Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. Il nostro sito radio24.it, potrete scaricare tutte le puntate che volete. Trovate anche sotto il profilo dei giornalisti, per chi lo ha, un blog, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri, come la vecchia trasmissione che avevo a Radio 24 fino a quasi 2 anni fa. Mentre invece vi ricordo l'altra informazione utilissima, vale a dire la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Perché vi ricordo la mia trasmissione su Radio 24, Guardie o Ladri? Circa 2 anni fa noi facemmo una puntata sul quartiere Zen di Palermo, un quartiere difficile e splendido, dove la dignità purtroppo viene calpestata dai quaquaraquà di Cosa Nostra, spesso e volentieri, a volte anche nell'insofferenza o nella sofferenza di chi lì rimane. Ma del quartiere Zen di Palermo io sono tornato a parlarne in questa trasmissione il 7 e l'8 settembre del 2009. Accadde all'epoca che una scuola nel nome di Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo fosse presa pesantemente di mira, e ebbi in trasmissione ospiti Milena Gentile del movimento Zen ed una figura straordinaria, quella del preside di quella scuola, Domenico Di Fatta, al quale chiesi espressamente questo: ma è possibile che il presidio dello Stato è soltanto in questa scuola? È possibile? È vera una cosa del genere? Sentiamo che cosa rispose. Al di là della scuola, allo Zen non c'è assolutamente niente. Non c'è una stazione dei carabinieri, non c'è una stazione dei vigili urbani, non c'è assolutamente niente che rappresenti lo Stato. Lo Stato poi è, devo dire, poco presente anche nell'aiuto che dovrebbe darci, perché a parte questi ultimi giorni in cui molti si sono mobilitati a venire a darci aiuto e sostegno, poi normalmente nella quotidianità siamo abbandonati, ma la quotidianità da noi è che il genitore entra dall'esterno per farsi giustizia e, come cronaca giornalistica, va in classe e picchia il professore. Qua noi avremmo bisogno di un presidio fisso di polizia, di carabinieri, anche dell'esercito, che per il progetto Strade Pulite per ora, per un altro anno, gira per le città. Io credo che sia più importante avere un presidio di legalità all'interno di questa scuola per tutelare i professori e per tutelare anche quei genitori e quei bambini che vengono a scuola per studiare. Ecco, questa è la drammatica testimonianza, l'avete sentita, di Domenico Di Fatta, che dice: qui lo Stato praticamente non esiste, la scuola, la formazione è l'unico presidio dello Stato. E del resto, come diceva un grandissimo scrittore siciliano, Gesualdo Bufalino, la mafia si sconfigge con un esercito di insegnanti e non con un esercito di poliziotti. Sante parole. Allora, purtroppo lo Zen di Palermo continua ad essere oggetto di minacce e rappresaglie di persone inqualificabili, indegne, schifose, usate il termine che volete, comunque i quaquaraquà, quella paccottiglia che si raggruppa intorno a Cosa Nostra, ma proprio a Cosa Nostra, quella proprio più spicciola, più spavalda, proprio quella da strada in tutti i sensi, che torna a colpire che cosa? Il centro Padre Nostro. Ed appunto nella trasmissione che facemmo circa 2 anni fa noi abbiamo avuto ospite il presidente del centro Padre Nostro dello Zen di Palermo, Maurizio Artale, che oggi abbiamo nuovamente ospite. Buongiorno Artale. Buongiorno a voi. E perché lo abbiamo nuovamente ospite? Perché ahimè il centro Padre Nostro dello Zen di Palermo è tornato ad essere oggetto di attenzioni da parte di questi soliti ignoti, come li denuncia e li appella Artale. Ci spieghi che cosa è successo, Artale? Ah, purtroppo alcuni ignoti si sono introdotti dentro i nostri locali, dentro la sede del nostro centro, asportando via 2 computer, la stampante, delle pendrive, un impianto hi-fi, insomma, della cancelleria, alcuni libri all'interno del nostro centro. E là per ora stiamo svolgendo, come sempre, come tutti gli anni, il recupero scolastico dopo scuola, perché una verità la dice il preside, appunto, che purtroppo il preside dello Stato non c'è, è rappresentato dalla scuola e da tutte le associazioni che lavorano in questo territorio difficile. Ecco, infatti voi siete un'associazione di volontariato, siete una organizzazione priva, senza scopi di lucro, fate volontariato, non siete lo Stato, siete un, come dire, nell'assenza dello Stato, nel vuoto dello Stato, siete un presidio di legalità. Artale, le chiedo questo, non è certamente che sono entrati per farvi un danno di 3.000 euro, è una manifestazione soltanto per dirvi, attenzione, qui comandiamo noi. Qual è la situazione oggi in questo bel quartiere di Palermo? Ma dopo gli arresti che ci sono stati, dai Lo Piccolo prima, dai Liga dopo, insomma, come dire, hanno tagliato le teste in questi quartieri dove si comandava. Lo Zen è famoso perché era il laboratorio, era il serbatoio della manovalanza della mafia. Quindi purtroppo il loro tentativo è quello di farci rimpiangere quando c'erano i capi bastone. Quindi il fatto che arrestano, come dire, i capi, questi sono cani sciolti, e allora la gente comincerà a rimpiangere i giorni quando la mafia comandava. Assolutamente, assolutamente cani sciolti, che io definirei senza mezzi termini bastardi tra i cani, quindi sicuramente quelli più straordinari per la compagnia dell'uomo, ma quelli che solitamente vengono additati invece come, come dire, cani senza padrone, appunto, come l'ha chiamati lei, cani sciolti. Sono proprio la manovalanza più bieca di Cosa Nostra. Ma vorrei tornare un secondo ad una cosa che mi ha colpito del vostro comunicato stampa. Sono sempre molto attenti a quelli che mi vengono dallo Zen di Palermo. Cioè, lei dice, questi centri aggregativi che dovrebbero essere finanziati nel nostro quartiere, che potrebbero accogliere 3.000 bambini in un quartiere come il vostro, vuol dire non molto, ma vuol dire di più, moltissimo, sono ancora chiusi. Perché, Artale? Perché l'amministrazione comunale ha perso almeno 4 mesi per fare un bando con soldi dello Stato che doveva mettere a disposizione per l'apertura di questi centri. Ancora ad oggi aspettiamo che si definisca la procedura di assegnazione di questi bandi che ci permetterebbe di riaprire questi centri che sono stati chiusi il 31 dicembre. Quindi dal 31 dicembre siamo, come dice, ci sono appunto questi 300 operatori delle diverse associazioni, più circa 3.000 bambini che non hanno più un posto dove andare. Fermo restando che noi continuiamo a stare aperti, ecco. Ma siamo oggi riusciti a stare aperti prima perché abbiamo fortunatamente una forte sensibilizzazione da parte dei volontari che fanno parte, certo, del Centro Padre Nostro, certo, e poi perché grazie al contributo della Fondazione per il Sud che ci sta sostenendo in un'azione del nostro centro, certamente, che è quello appunto del recupero scolastico. Certamente, allora, per sostenere Padre Nostro contro Cosa Nostra, non è un gioco di parole ma una realtà, io vi invito a visitare il sito del Centro Padre Nostro, che è semplicissimo, è centropadrenostro.it, più semplice di così, si muore così, scoprirete anche che cosa vuol dire avere un presidio di legalità del volontariato in una zona così difficile. Anche, scusami, prego, una web tv che possono, troveranno il banner nel nostro sito. Benissimo. Possono anche visitare e vedere tutto quello che facciamo. Fantastico. Proprio Puglisi ha voluto creare, non soltanto a Brancaccio, ma con la sua morte ha voluto che questo seme fosse sparso per tutti i quartieri che ne avessero bisogno. Benissimo, questo voglio dire è importantissimo quello che lei ha ricordato. Allora io però vorrei tornare allora a questo punto ad una denuncia che faceva il nostro preside e al quale lei ha cominciato ad accennare, poi l'ho interrotta proprio perché avevo piacere di tornarci dopo. Vale a dire, lei dice sì, è vero, qui lo Stato non c'è, ma io mi domando e chiedo, al di là di tutte quante le chiacchiere che tutti i governi fanno, a me francamente me ne può fregare di meno che siano di centrodestra, centrosinistra, del centro, il colore politico non mi interessa, anzi spesso mi repelle, quindi al di là delle parole che fanno, il governo del fare contro la mafia, il governo dell'operare contro Cosa Nostra, ecco, ma com'è possibile che allo Zen non c'è un presidio che sia un caserma dei carabinieri, del corpo forestale, della polizia, non so nemmeno io chi. Beh, ecco, questo per voi è motivo di cosa, Artale? È motivo di desolazione, però ci dà la forza di dire, siccome dove questo è stato sperimentato con successo, abbiamo capito che è una formula che funziona, cioè mettere assieme le forze istituzionali dello Stato, le scuole e, come dire, il privato sociale. Ma il problema è che se va il governo non si vuole giocare la sua partita allo Zen, siamo veramente fritti. Allo Zen già la caserma dei carabinieri è finita, dovrebbe essere semplicemente consegnata, ma 2 mesi fa hanno, come dire, sono andati là un esercito almeno di 250 tra polizia, carabinieri e vigili urbani per buttare fuori tutta quella povera gente che purtroppo, non avendo casa, ha occupato abusivamente tutti questi locali, uno di questi è quello nostro pure. Nel giro di 3 giorni sono ritornati di nuovo là ad occupare questi locali, quindi certo. Lo Stato là ha perso, ci ha perso la faccia, i carabinieri non ci vogliono andare perché dicono noi qua ci perdiamo la faccia, perché quando questi entreranno e ci fotteranno i condizionatori, le parabole, le porte, noi che dobbiamo fare? Allora, il problema è che si trovano loro in una posizione veramente non invidiabile. Assolutamente. Lo Stato là deve andare a giocarsi la sua partita. E noi saremo qui a seguire questa partita e continueremo a parlarne anche con Artale, che ringrazio. Grazie a Piero La Corte, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi dà appuntamento a domani.